Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. La meglio gioventù del nostro tempo sostiene questo paese con idee, desideri, progetti, volontariato, azioni concrete, scopre nuovi mondi e inventa il futuro. Eppure è sempre disoccupata, in cerca di lavoro, precaria, senza stipendio. Studia per dare il meglio di sé e migliorare le vite di tutti e di tutte, ma una volta laureata è costretta ad andarsene. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Abbiamo scelto l'incipit del manifesto del movimento La Meglio Gioventù per iniziare questa ultima puntata della serie invernale del programma. Da sabato prossimo e fino all'8 settembre andrà in onda la versione estiva della trasmissione che, vi preannunciamo, sarà ricca di sorprese e spunti interessanti. Oggi torniamo su un tema classico di Giovani Talenti, quello della ricerca, collegato alla piaga della fuga dei cervelli. Lo facciamo con un paese simbolo della nostra emigrazione, la Gran Bretagna, e lo facciamo con la storia di chi ha provato a resistere in Italia, invano. Vale la pena lottare, il motivo per cui sono rimasto più che ho potuto, però poi a un certo punto della propria vita si pensa anche alla carriera. Francesco Lescai, 35 anni, è uno scienziato e ricercatore allo University College of London. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Nessuna frenata né accenno di flessione per il fenomeno dei cervelli in fuga è il quadro che emerge da un'indagine Istat. Nell'ultimo decennio l'incidenza dei laureati italiani sul totale degli espatri è raddoppiata dall'8,3% al 15,9%. La propensione a spostarsi verso altri paesi tende ad aumentare con il crescere dell'educazione. Espatriano maggiormente i laureati che provengono da discipline scientifiche. I più mobili sono i laureati del nord Italia. Le principali mete di destinazione: Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania e Svizzera. Oltre la metà di loro svolge un lavoro dirigenziale o di elevata specializzazione, contro il 42% dei colleghi rimasti in Italia. La differenza maggiore sul piano retributivo: chi lavora all'estero guadagna 540 euro in più rispetto a chi è rimasto. Infine, sui motivi che hanno determinato la scelta di andarsene, quasi il 64% dichiara di averlo fatto per trovare un lavoro più qualificato, il 61% per la possibilità di una maggiore retribuzione. Tra le maggiori economie europee, l'Italia, dopo la Spagna, è il paese, per l'ufficio studi Confartigianato, con la più alta crescita della disoccupazione giovanile nell'ultimo triennio. Per il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor, il livello di disoccupazione in Italia è fonte di preoccupazione. Il tasso di disoccupazione giovanile è peggiore dell'area euro. Situazioni che fanno sopravvivere e incentivano vergognose abitudini, come la raccomandazione. Un italiano su quattro continua a ritenere che per lavorare sia più importante la cosiddetta spintarella, lo dice il Censis. Solo il 24% delle persone è convinto che i laureati trovino buoni lavori con interessanti remunerazioni. Il 32% pensa che un laureato debba passare un lungo periodo di ricerca. Intanto, secondo statistiche comunitarie, l'Italia è all'ultimo posto nell'Unione Europea per percentuale di 30-34 anni con titolo di istruzione superiore, solo il 20,3%, peggio di Romania e Malta. L'obiettivo europeo è esattamente il doppio. Conferma Alma Laurea, continuano a calare i laureati in Italia. I 19enni che si iscrivono all'università rappresentano solo il 29% dei coetanei. Denuncia Fabio Pammolli, direttore della scuola superiore IMT di Lucca, dove tutte le lezioni sono in lingua inglese, le regole mi vietano di assumere docenti stranieri. Un vero paradosso che impedisce la circolazione dei migliori talenti dell'insegnamento. E la vicenda di Giambattista Ascirè è l'ennesima storia di un concorso all'italiana, un concorso indetto dall'Università di Catania per un posto da ricercatore a tempo indeterminato in storia contemporanea. Il concorso viene vinto da una candidata laureata in architettura. Giambattista, laurea in storia e dottorato, ha un profilo perfetto sulla carta, ma secondo la commissione meno idoneo dell'altra candidata. Alla microfono di Giorgia Mennuni, Giambattista racconta la sua storia. Mi accorgo che arrivo secondo, a due punti di distanza dalla candidata, e siccome mi presentavo con un curriculum di tutto rispetto, ero tra i candidati sicuramente più con le carte in regola per vincere. Quindi faccio l'accesso agli atti e ho scoperto questi elementi fondamentali per cui, diciamo, la candidata vincitrice era laureata in architettura, non aveva il titolo del dottorato di ricerca, e dopodiché quindi faccio con l'avvocato appunto il ricorso al TAR, che mi dà ragione. Rileva dei consistenti profili di irregolarità e quindi riconvoca la commissione, che si riunisce e spiega che invece i titoli sono perfettamente congrui dal suo punto di vista, ovviamente, e riconferma come se nulla fosse l'esito di questo concorso. Intanto il ministro dell'Università Francesco Profumo annuncia in arrivo dopo l'estate un piano nazionale pluriennale per la ricerca sul periodo 2013-2020 per allineare l'Italia all'Europa. Un motivo per restare o tornare. arriva il credito d'imposta del 35% con un limite massimo pari a 200.000 euro annui a impresa per l'assunzione di personale qualificato, lo prevede il decreto sviluppo. Previsti anche finanziamenti agevolati alle aziende che investono in progetti di green economy e che assumono a tempo indeterminato under 35 giovani laureati. Diventa operativo infine il nuovo regime fiscale light per le neoimprese realizzate dai giovani. L'imposta sarà pari solo al 5%. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: analisti di strategia e investimento a Big Society Capital in Gran Bretagna, scadenza per i CV domani, candidature a jobs@bigsocietycapital.com. 4 posizioni per informatici a Berlino, li cerca l'azienda di headhunting Expaway, info e curricula a italiansinfuga@expaway.com. E infine uno Scientific Program Manager alla International Agency for Research on Cancer di Lione, scadenza per i CV 6 luglio, info su irecruited.who.int. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna, tappa a Londra in uno dei centri di eccellenza della capitale britannica. Nome: Francesco. Cognome: Lescai. Età: 35. Città di origine: Grosseto. Studi: laurea in biotecnologie mediche e dottorato in patologia sperimentale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Londra. Perché? Ero stufo dei contrattini precari. Quale lavoro svolgi attualmente? Sequenziamento e analisi del genoma umano. Dove? University College London, Institute of Child Health. Tornerai? Mi piacerebbe, ma sono diventato più esigente ora. Planet Funk, Stuck in the UK, per introdurre la storia di Francesco Lescai. Per molti anni, forse troppi, non ho voluto lasciare l'Italia per provare a cambiare qualcosa, sia a livello collettivo che a livello personale. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. A posteriori, ora che l'Italia l'hai lasciata, pensi che sia proprio inutile restare e lottare nel bel paese? Bisogna andarsene prima, non c'è proprio speranza, Francesco. Beh, la carriera di un ricercatore è fatta di un delicato rapporto tra pubblicazioni, esperienze ed età. Andarsene prima facilita l'interamento in un ambiente che pubblica meglio. La mia considerazione era dettata semplicemente da questo. Vale la pena lottare, il motivo per cui sono rimasto più che ho potuto, però poi a un certo punto della propria vita si pensa anche alla carriera. Ed è giusto. Iniziamo con i tuoi studi. Ti iscrivi a biotecnologie mediche all'Università di Bologna, una laurea decisamente impegnata. Perché questa scelta? Perché a scuola volevo fare ingegneria genetica, poi ho scoperto che si trattava di biotecnologie e quindi ho fatto questa scelta che rifarei mille volte. Come giudichi il livello di insegnamento complessivo nelle nostre università, soprattutto se lo paragoniamo a quelle straniere? Ottimo. Il problema è il collegamento tra la ricerca e la didattica, che è ancora troppo debole in Italia. La didattica seminariale di tipo inglese invece mi piace un po' meno. Nel frattempo maturi l'idea di fare scienza in modo diverso, in modo ibrido, scienziato atipico ti definisci, meno da laboratorio e più attento al rapporto con la società. Dopo la laurea opti per un dottorato in patologia sperimentale. Cosa ti spinge in primis verso la carriera accademica, ma soprattutto cosa ti spinge a restare in Italia? Beh, nello scegliere il dottorato ho avuto diverse opzioni ed ho capito che l'ambiente, l'università come ambiente mi piaceva. Da un punto di vista puramente scientifico sono rimasto in Italia perché devo dire che il laboratorio dove lavoravo è sempre stato ricchissimo di domande intriganti alle quali è impossibile restare indifferenti. Quindi diciamo c'era materiale all'epoca per provare la sfida. Da un punto di vista scientifico sì. Il dottorato ti porta in primis a confrontarti a livello europeo. Coordini un progetto del sesto programma quadro sull'innovazione, trascorre alcuni mesi in Germania, in uno dei più importanti laboratori di genetica, e la domanda che ti faccio è quanto la mobilità dei cervelli, lo scambio di conoscenze è vitale per tenere viva la ricerca, ma soprattutto trovi questa mentalità poco radicata in Italia? La mobilità è fondamentale, è talmente fondamentale che all'estero in generale i ricercatori sono incoraggiati a lavorare in posti diversi e a non restare sempre nella stessa università. E in Italia andarsene è considerato un tradimento. È pazzesco, Quando io me ne sono andato mi è stato detto di non farmi più vedere. Cioè il contrario di quello che accade fuori, il contrario. È esattamente il contrario. E da dove deriva questa mentalità? Non lo so, io credo che ci sia la mentalità di un po' delle vecchie scuole in cui si deve essere fedeli in qualche modo, oltre alla mentalità baronale che insomma uno dovrebbe semplicemente gravitare intorno a dei personaggi indipendentemente dal riconoscimento e dalla valorizzazione delle proprie esperienze. Tornato a Bologna ho lottato per molti anni per riuscire a importare quanto avevo imparato, ci sono riuscito, ci scrivi. Francesco, quando usi il termine lottare, cosa sottintendi? Beh, significa che per esempio in Germania avevo imparato nuove tecnologie, richiedevano strumentazione d'avanguardia, per comprarle in Italia abbiamo dovuto creare un'alleanza di 17 dipartimenti con molti gruppi di ricerca che sottoscrivessero la richiesta finché venisse approvata. Chi frena il cambiamento e l'innovazione, Francesco, in Italia? Io credo che manchi una vera visione del futuro, manca soprattutto un contesto che premia e che avvantaggia chi ha delle idee, delle proposte e ha voglia di rischiare per portarle avanti. Faccio un esempio: per un imprenditore, qui apre un'azienda in 24 ore con 30 sterline. Lo stesso contesto manca in Italia per un ricercatore. Purtroppo questi sforzi non si sono concretizzati in una valorizzazione delle mie esperienze in termini di carriera. In Italia ci si dimentica che l'investimento più importante è quello sulle persone, senza le quali le tecnologie non funzionano e le idee non nascono, tu denunci. In realtà, ti chiedo, non è che mancano entrambi i tipi di investimento in Italia? Ma allora sì, però a comprare uno strumento scientifico alla fine sono capaci tutti, anzi spesso lo si fa senza una struttura che consenta di sfruttarlo. Investire sulle persone è molto più difficile, non si tratta solo di metterci dei soldi, si tratta di valorizzare le persone, di permettergli di crescere, di inserirle in un ambiente stimolante dove abbiamo sempre da imparare, magari proprio favorendo la mobilità. È un investimento ben diverso. A fine 2009 la doccia fredda, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, ti viene detto che non sarebbe stato rinnovato e che occorreva cercarne un altro, con potenziale riduzione dello stipendio. A 9 anni dalla laurea, con le responsabilità ed esperienze accumulate, mi sembrava inaccettabile, sostieni giustamente. Ci spieghi come ci si sente dopo aver investito tanti anni sul proprio paese e sulla propria formazione ad essere trattati in questo modo? Ma delusione è la prima emozione, poi ci si sente presi in giro e ci si arrabbia. Alla fine ci si sente semplicemente un po' tristi, perché nonostante gli sforzi significa che non è cambiato nulla e che era tutta apparenza, tranne l'impegno che ovviamente era reale. E poi se ne vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Ho inviato 3 curricula a Londra, ho ricevuto 3 proposte di colloqui. Alla fine ho accettato il posto offertomi allo University College of London, presso una struttura appena costituita per il sequenziamento del genoma umano, precisi a giovanitalenti@radio24.it. Con quale posizione esattamente? Come Research Associate nel centro di piattaforme tecnologiche per la genomica della UCL. Poi sono arrivate le sorprese, ovviamente in positivo. Quali? Beh, l'ateneo, le persone in cui ho lavorato, l'ambiente mostruosamente stimolante. Inizialmente mi sono sentito molto piccolo in confronto al calibro di alcune persone con cui potevo discutere. Da ogni parte avevo occasioni per imparare qualcosa di nuovo e per crescere, e questa era una sensazione che avevo un po' dimenticato negli ultimi anni a Bologna. In neppure 2 anni hai già ottenuto la promozione a Senior Research Associate, responsabile della bioinformatica in un gruppo di medicina traslazionale all'Institute of Child Health. Contemporaneamente prosegui le collaborazioni a livello europeo, allora ci spieghi in modo molto semplice, perché il tuo è un settore non facilissimo, di cosa ti occupi ora? In modo semplice, sono in un gruppo che aiuta i clinici del più grande ospedale pediatrico d'Europa ad utilizzare le ultime tecnologie di sequenziamento del genoma per la gestione di casi speciali di malattie rare nei bambini. Ci diagnostichiamo facendo la sequenza del genoma umano, ricerchiamo un difetto nella speranza di aiutare il clinico a gestire meglio il caso, a diagnosticarlo meglio in una diagnosi prenatale e speriamo a trattarlo meglio anche in terapia. Perché a Londra ti senti attore di un cambiamento scientifico e in Italia no? Semplicemente perché Londra è un crocevia tra Londra e Cambridge, le migliori università del mondo non solo attraggono persone ma organizzano e promuovono momenti di sviluppo scientifico, concentrano i migliori ricercatori. Le università italiane in generale, poi ci sono rare eccezioni ovviamente, ma non si pongono in questo ruolo di hub. Domanda diritto: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Non sono un economista, però insomma, senso comune, i debiti si pagano quando si cresce, si produce e quindi si guadagna, e il valore aggiunto ai nostri prodotti lo danno ricerca e innovazione, il resto sono chiacchiere. Secondo me per fare ricerca e innovazione serve un posto, un sistema dove chi ha idee, chi ha voglia di scommetterci sia avvantaggiato rispetto a chi segue la corrente. E attenzione, non mi sogno di attaccare lo stato sociale, perché a questo ci pensa già il governo, ma dico che un giovane che vuole aprire un'azienda non può dover trovare i soldi per pagare un notaio, versare un capitale, altrimenti ha già perso nei confronti del coetaneo che vive qua e che in 24 ore la apre. Se in generale la tecnologia in Italia deve diventare scontata, ci deve essere un piano di investimento regionale, razionale, il piano strategico deve essere fatto davvero sulle persone e sulle competenze, senza guardare in faccia a nessuno, però il problema è che bisognerebbe mandare in pensione tanta gente, secondo me. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesco Lescai, 35enne scienziato e ricercatore allo University College of London. Francesco vi giunge dopo una laurea in biotecnologie mediche a Bologna e un dottorato in patologia sperimentale. Soprattutto vi giunge dopo aver resistito per quasi un decennio alle sirene di impieghi migliori e meglio remunerati oltre confine. Alla fine, all'ennesimo contratto in dubbio, decide che è ora di fare le valigie. 3 curricula inviati a Londra, altrettanti colloqui, l'assunzione poi presso il prestigioso prestigioso UCL. Subito ottiene una valorizzazione delle proprie competenze e l'inserimento in un ambiente innovativo. Dopo neppure due anni arriva la promozione. Ancora una volta una storia che sembra dar ragione ai noi, a chi sostiene che non valga la pena restare in Italia per cambiare le cose. Ci raggiunge ora in linea Simone Maccaferri, ricercatore postdoc all'Università di Bologna, presidente di AMBI, Associazione Nazionale dei Biotecnologi Italiani. Buon pomeriggio. Simone, la storia di Francesco è paradigmatica. La domanda ti faccio: è davvero inevitabile che chi prova a cambiare le cose in Italia debba andarsene alla fine, o c'è una speranza? Una speranza c'è, voglio credere e sperare che la speranza siamo noi che siamo qui a lavorare in Italia. Voi giovani. Migliori, sì. Però questa deve essere una realtà in futuro, non può essere sempre una speranza scontrandosi con un sistema scarsamente innovativo e conservatore. A livello di AMBI, un anno fa avete condotto un'indagine su 1000 biotecnologi. L'8% di loro si trovava all'estero, la maggior parte in Gran Bretagna. Quali sono gli altri paesi di espatrio e perché se ne vanno? Cosa trovano all'estero in termini di opportunità? Altri paesi, principalmente meta dei biotecnologi, sono gli Stati Uniti, la Germania, la Svezia. I biotecnologi se ne vanno perché trovano un sistema più meritocratico, un miglior accesso ai finanziamenti, una valorizzazione del proprio percorso professionale e un tessuto imprenditoriale che più facilmente assorbe ricercatori ed innovatori delle tecnologie. Dottorandi e postdoc sono le posizioni maggioritarie oltre confine, secondo la vostra ricerca sono oltre il 70% e sempre il 70% degli intervistati vive all'estero da oltre due anni. È dunque un percorso di sola andata in genere? No, non è un percorso di sola andata, ma è un percorso che può trovare diversi ostacoli nel momento del ritorno. Tipo? Per esempio non c'è una valorizzazione meritocratica dei profili dei ricercatori che si sono formati e hanno posizioni all'estero. Questo è successo magari nel passato a spot, ma non è una cosa organica, strutturale, che porti a promuovere i ricercatori di alta qualità formatisi all'estero all'interno dell'università italiana. Infatti, sempre secondo la vostra ricerca, sempre il 70% dei vostri intervistati ha interrotto la collaborazione col proprio laboratorio italiano di provenienza. Allora, giro la domanda a Francesco Lescai: se tu volessi tornare oggi, troveresti le porte spalancate con un curriculum così prestigioso o rischieresti per paradosso di dover elemosinare un posto? Direi la seconda, Penso che l'unica offerta bella che ho ricevuto non era in università, e tornare in Ateneo con la situazione attuale significa rientrare con un posto dove effettivamente si possa costruire qualcosa, servono delle garanzie per portare avanti il proprio lavoro e delle strutture per farlo, e questo penso che pochi sarebbero in grado di offrirmelo adesso. Ed è anche per questo che le cose devono cambiare, questo paese deve cambiare il suo atteggiamento verso la ricerca e lo sviluppo. Simone, a livello di AMBI, qual è il vostro impegno per cambiare le cose? Prima di tutto bisogna far sì che i professionisti delle biotecnologie, i nuovi professionisti di queste professioni ad alto elevato contenuto di innovazione, di tecnologia, vengano riconosciuti. E poi è necessario che si creano le sinergie fra il pubblico e il privato per far sì che chi si dà alla ricerca non possa fare ricerca solo in università, ma trovi una valorizzazione nel sistema imprenditoriale delle proprie competenze, del proprio apporto al sistema economico del paese. Grazie a Simone Maccaferri e in bocca al lupo. Francesco, invece, per chiudere, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Di non pensarci due volte, perché lasciare il proprio paese è dannatamente difficile, nessun posto al mondo è il paradiso, però arriva un momento in cui è troppo tardi poi per andarsene, e rimpiangere di non averlo fatto è peggio che aver esplorato altre strade che almeno rappresentano un'alternativa. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Apriamo la nostra finestra mensile su italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di espatriati italiani, tappa oggi in Canada. Roberto Gemellaro, amministratore di IOL Toronto, ci racconta la nuova comunità di expats. Gli iscritti saranno circa 500. Roberto, il Canada è uno dei paesi in cima ai sogni dei giovani professionisti italiani che emigrano. Qual è l'identikit del giovane che viene a lavorare a Toronto? Il giovane cerca un paese abbastanza stabile nel mondo, con una buona reputazione, con meritocrazia, dove chi lavora può andare avanti. Quali sono i settori che attirano di più l'immigrazione? Il campo medico, la ricerca, fino a un certo punto l'alta tecnologia e le risorse naturali. E ci sono tanti under 40 con una laurea, un master alle spalle che vengono in Canada, parliamo di italiani ovviamente. Sanno cosa vogliono, sanno perché sono qui, però l'immigrazione europea non è quella che era in passato. Anche per le politiche sull'immigrazione, immagino. Sì. Sì, non è facile venire in Canada ora. Non è facile, è un po' complicato, è difficile. Diciamo che in Canada sono molto pignoli. Cosa spinge questi giovani italiani a venire a Toronto? Cioè, da cosa se ne vanno? Toronto è il futuro, perché è una città grande, tranquilla, rispetto alle città americane è molto sicura. È una grande città, opportunità di tutto, in tutti i campi, nella ricerca, medicina. Hai l'impressione, amministrando il sito, che ci sia molta richiesta comunque di venire in Canada? In molti chiedono come fare. Sì, tanti giovani chiedono, però rimangono un po' scioccati dal fatto che scoprono che venire in Canada non è semplice, perché è una politica molto, molto severa. L'immigrazione è molto severa e vogliono il meglio del meglio, e quindi diventa più dura. I giovani italiani possono benissimo scegliere ovunque in Europa, però quelli che decidono di venire a Toronto lo fanno dopo aver fatto tante ricerche, dopo averci pensato, diciamo, a lungo. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net sezione Toronto. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.elsole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per la prima puntata della serie estiva di Giovani Talenti. Le nuove storie torneranno invece il 15 settembre. Non lasciateci, sarà un'estate con molte sorprese. Un saluto e a sabato prossimo da Sergio Nava.